E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e sei minuti, la prima puntata di Focus Economia della settimana, di nuovo con voi Sebastiano Barisoni. E allora, dopo settimane molto travagliate sul fronte del debito, degli spread, le tensioni sui tassi e sulla tenuta soprattutto di Spagna e Italia, oggi la settimana si apre in maniera relativamente più tranquilla, soprattutto per quello che riguarda l'asta di oggi dei titoli di Stato italiani. Lo spread, ossia, lo ricordiamo ogni volta, la differenza tra quanto costa a noi indebitarsi rispetto a quanto costi alla Germania, è risalito a 447 punti, era sceso fino a 438 punti. Il rendimento, ossia quanto deve offrire l'Italia per trovare sottoscrittori per il suo debito sul BTP a 10 anni, viaggia al 5,90%. Dicevo però, bene l'asta di oggi del Tesoro, che ha collocato sul mercato 8 miliardi di euro di bot a un anno, quindi ha chiesto prestiti per 8 miliardi in obbligazioni in scadenza a un anno. Ebbene, bene l'asta, i tassi sono stati stabili al 2,76%. La domanda buona, nel senso che è stata una volta 0,7 superiore all'offerta, il mese scorso fu più debole, leggermente più debole la domanda, una volta e mezza l'offerta, in sostanza. La cosa che invece resta come elemento, a mio avviso, della schizofrenia anche nei mercati europei è l'andamento del titolo di Stato tedeschi. La Germania oggi infatti ha collocato bot, bund tedeschi a 6 mesi, il tasso è negativo, e cioè si prestano soldi alla Germania sapendo che la Germania ne darà indietro di meno, meno 0,05%, ha collocato tutti i 3 miliardi e 700 milioni di euro di titoli a 6 mesi la Germania, con una domanda buona, una volta 0,26 l'offerta. Questo nonostante appunto tassi negativi, perché questo, lo dicono gli operatori, si chiama flight to quality, a mio avviso si chiama terrore o paura in qualche modo irrazionale. Si preferisce prestare i soldi alla Germania sapendo che se ne otterranno meno indietro di quanto non si siano prestati, piuttosto che metterli in altri debiti, italiano e spagnolo in primo luogo. Molti di voi ci chiedono: ma che senso abbia? Quando hai paura, quando temi che la casa europea, chiamiamola così, non resti in piede, preferisci perderci qualcosa ma salvare il capitale. È un po' come quando, se vogliamo usare questo esempio, si preferisce mettere i soldi sotto materasso sapendo che verranno erosi dall'inflazione, ma almeno, diciamo, non si rischia, non ce la si fa a rischiare, non ci si sente di rischiare l'investimento in altre forme. Di cosa parleremo oggi? Parleremo come sempre di mercati, che per inciso sono deboli tutti, ma nulla di preoccupante. Milano perde lo 0,22%, Parigi lo 0,60%, Francoforte lo 0,70%, Londra lo 0,34%, e l'America meno 0,70% anch'essa, l'euro a quota 1,2340. Tra i titoli segnalo, ripeto, ne parleremo più avanti, Enel Green Power più 2%, Popolare Emilia Romagna più 1,70%, A2A più 1,60%, Unicredit più 1% come Mediaset. Tra chi va male invece ST Microelectronics meno 2,70%, Buzzi Unice meno 2 come Mediolanum, Tods meno 1,5%, Pirelli meno 1,20%, Ansaldo CTS meno 1% come Saipem. E dicevo, al di là dei mercati, l'IVA, la vicenda IVA di Taranto, oggi una decisione importante che complica da un certo punto di vista l'intera lo sbroglio di una matassa che vede da un lato le preoccupazioni sulla salute degli abitanti di Taranto e la certificazione dei danni provocati dallo stabilimento IVA di Taranto, dall'altro però anche la necessità di preservare i posti di lavoro. Il governo oggi è ricorso alla Consulta per contestare i provvedimenti della magistratura che rischiano appunto di portare alla chiusura degli impianti IVA di Taranto. Lo ha annunciato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Antonio Catricalà. Tra l'altro, 2 ore di sciopero e blocchi sulla statale 7 Taranto-Brindisi questa mattina a Taranto per i metalmeccanici che aderiscono alla Film Chisler Wilm Will. E il prossimo 17 agosto, come confermato dal Presidente del Consiglio Mario Monti, arriveranno a Taranto i ministri Corrado Passer, quindi allo sviluppo economico, Paola Severino alla giustizia e Corrado Clini all'ambiente, per valutare la situazione e capire se esistano spazi legati a un intervento dell'esecutivo. Parleremo anche di Windjet. Non è successo purtroppo nulla, nel senso che con molta lentezza migliaia di passeggeri vengono trasbordati, diciamo così, sui voli all'Italia o altre compagnie aeree meridiane all'Italia soprattutto. Però è polemica sul sovrapprezzo, nel senso che oltre che pagare due volte la tassa aeroportuale, cioè Windjet l'ha già incassata, i 30 euro con un nuovo biglietto va ripagata, anche i costi, citano e segnalano molti ascoltatori, oltre che l'associazione dei consumatori, i costi, i nuovi biglietti viaggiano da 100 euro fino a 350 euro, con una beffa oltre al danno innegabile. 349-238-6666 per i vostri sms, appunto, visto che oggi i mercati sono più tranquilli, possiamo occuparci anche di altri temi. Allora, subito con le notizie in breve. Restiamo però in tema di mercati come materie prime, perché non si ferma il rialzo del petrolio a 93-86 dollari a New York, ma il Brent, ossia il petrolio del Mare del Nord, quello trattato a Londra, ha superato i 114 dollari, siamo ai massimi da 3 mesi. E poi interessante in tema invece di crisi economica lo studio che riporta oggi il Financial Times. Lo studio in realtà è fatto dalla società Privatization Barometer, secondo il quale con i salvataggi compiuti dai governi in questi anni nei confronti delle banche, salvataggi soprattutto nel mondo anglosassone, va detto, qualcosa anche in Francia, Germania, in Italia, nulla. Ma insomma, i salvataggi delle banche hanno mandato in fumo 30 anni di guadagni dalle privatizzazioni. I governi hanno investito infatti 1.700 miliardi di dollari per salvare colossi finanziari, ricordiamo tutti AIG, e da allora i 1.700 miliardi equivalgono, sostanzialmente quelli spesi equivalgono più o meno ai 1.800 miliardi di dollari incassati dal 1981 con l'ondata di privatizzazione che vi fu allora. E tra l'altro, sottolinea il Financial Times, i governi stanno nazionalizzando alcuni asset, in alcuni casi come nel caso di alcune banche britanniche le hanno nazionalizzate del tutto, ma continuano ad andare avanti con le privatizzazioni di altri. E aggiunge il Financial Times, i governi continuano a vendere quote in società private ma allo stesso tempo ne comprano altre. E a proposito di salvataggi, di nuovo siamo alla fase, al terzo salvataggio per il gruppo assicurativo franco-belga Dexia. Potrebbe infatti avere bisogno a breve di una nuova iniezione di fondi pubblici per scongiurare la bancarotta, lo ha affermato il governatore della Banca Centrale Belga Luc Keun. Secondo indiscrezione della stampa belga servirebbero altri 5-6 miliardi di euro che andrebbero ad aggiungersi ai 6 miliardi già stanziati da Parigi, da Bruxelles, cioè da Francia e da Belgio nel 2008 e 4 miliardi che solo il Belgio ha messo sul piatto nell'ottobre 2011 e che sono ancora comunque al vaglio dell'antitrust europeo per capire se possa profilarsi e configurarsi l'aiuto di Stato. Nel frattempo dal Giappone arriva una notizia per cui il PIL è cresciuto nel secondo trimestre, aprile e giugno dello 0,3%, dell'1,4% su base annuale, tonfo vero e proprio di nuovo per il PIL greco. Pensate che nel secondo trimestre la Grecia ha fatto meno 6,2%, aveva fatto un meno 6,5% nel primo trimestre e la Grecia si avvia praticamente al quarto anno consecutivo di recessione economica. E se Atene piange, Berlino invece ride, e lo dico senza grossa polemica, ma insomma che questa crisi stia avvantaggiando direttamente e anche indirettamente la Germania, la crisi dell'euro, l'attacco alla fascia, diciamo, dei paesi mediterranei stia avvantaggiando la Germania è fuori discussione, non solo perché in Germania, la Germania si rifinanzia e finanzia il suo debito, come abbiamo appena ricordato, con tassi negativi, quindi conviene in Germania indebitarsi piuttosto che non farlo, con un vantaggio enorme per gli imprenditori tedeschi e anche per tutti coloro, le multinazionali tedesche, che possono finanziarsi con tassi, non dico negativi, ma vicini allo zero, ma ne ha un vantaggio anche dal punto di vista dell'export. La bilancia commerciale tedesca avrà un attivo quest'anno di 210 miliardi di dollari, superiore a tutti gli altri paesi del mondo. Lo studio è quello dell'IFO, è commissionato dal quotidiano economico Financial Times Deutschland, secondo cui la Germania con questo attivo nella bilancia commerciale supererà anche la Cina e chiuderà l'anno appunto con che stando all'indagine dovrebbe chiudere la Cina l'anno con 203 miliardi, la Germania 210 miliardi di attivo nella bilancia commerciale, cioè la differenza tra export e import. Nel frattempo la fuga, ne parleremo domani ampiamente, la fuga degli investitori stranieri dal debito euro è in atto e in corso ed è particolarmente significativa sul debito in euro, chiaramente emesso da Spagna e Italia. Sempre meno titoli di Stato infatti in mano agli stranieri, titoli di Stato italiani in mano agli stranieri. I dati diffusi oggi dalla Banca d'Italia, e sono riferiti ad aprile, mostrano come i non residenti in Italia detenessero titoli per 596 miliardi di euro su circa 1600 miliardi che è il nostro debito. Quindi il 37% del nostro debito è ancora in mano a stranieri, è però calato moltissimo, del 26% la quota in mano agli stranieri rispetto a un anno fa. Un anno fa, cioè all'aprile del 2011, erano 814 miliardi di euro in mano agli stranieri del nostro debito, adesso appunto sono scesi a 596, sostanzialmente 216 miliardi in meno. E di conseguenza è aumentata la quota del debito italiano in mano agli italiani. Praticamente ormai la quota in mano ai residenti in Italia si avvicina al 33%. Una nuova notizia che riguarda la frenata, in alcuni casi è un vero e proprio stop del mercato immobiliare in Spagna e in Italia, riguarda questa volta gli esercizi commerciali. Siamo praticamente vicini al collasso come dato economico. Pensate che il numero delle transazioni, non stiamo parlando del prezzo degli immobili ad uso commerciale, ma del numero di transazioni, di quante compravendite vengono effettuate. Ebbene, il numero delle transazioni ha registrato un crollo sia in Spagna che in Italia del 90% nel secondo trimestre dell'anno. E praticamente in Italia tra aprile e giugno sono state concluse solo due compravendite di immobili commerciali contro le precedenti 56. In Spagna tre vendite contro le 58. E il nostro debito va a record, lo dice la Banca d'Italia, a giugno, 1972 miliardi di euro, superando i 1966 di maggio. Bene invece le entrate tributarie contabilizzate dal bilancio dello Stato sono aumentate di 2 miliardi nel mese di giugno, un più 6% rispetto a giugno del 2011. Torna anche, seppur in versione estiva, quindi con meno notizie, il nostro appuntamento su cos'è questa crisi. E beh, insomma, ne abbiamo una buona e una meno buona. Desta già molta polemica, addirittura il Presidente della Camera Fini ha minacciato querela. Comunque, cos'è questa crisi per gli altri? Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Poi dicono che le auto blu non costano. In realtà il risparmio annuo del taglio delle auto blu deciso dal governo Monti si aggira sui 280 milioni di euro. Non sono proprio bruscolini. 280 milioni di euro. Il 44% delle amministrazioni pubbliche però è in ritardo nel risanamento. Il monitoraggio lo ha effettuato il Formez e relativo fino al 30 giugno del 2012 e certifica come la spesa sostenuta nel 2011 per la gestione di tutto il parco di auto blu o grigio, insomma, della pubblica amministrazione italiana è pari a 1 miliardo e 220 milioni. 1 miliardo e 220 milioni. Ma cos'è questo? questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Nel frattempo è polemica, dicevo, tra quanto pubblicato dal quotidiano Libero e il presidente della Camera Gianfranco Fini. Libero infatti ha pubblicato un'inchiesta da cui emerge che negli ultimi 5 anni l'hotel I Presidi di Orbetello ospita da luglio a settembre 9 uomini della scorta del presidente della Camera Gianfranco Fini per un costo di 80.000 euro l'anno che sarebbe a carico dello Stato. Fini ha annunciato querela, afferma che la scorta è gestita dal Ministero degli Interni senza che lui abbia mai chiesto privilegi o trattamenti di favore. Il ministro degli Interni, comunque, Anna Maria Cancellieri, ha fatto sapere con una nota di aver chiesto al capo della polizia, Antonio Manganelli, una approfondita relazione sulla vicenda. Attendiamo notizie, attendiamo di sapere se veramente i 9 uomini della scorta dormono da luglio a settembre a Orbetello. Speriamo che non sia vero, speriamo che tutto venga smentito. Sarebbe obiettivamente una delle peggiori notizie della nostra rubrica Ma cos'è questa crisi? Noi adesso ci trasferiamo a Taranto perché continuiamo a seguire la vicenda Ilva, che il prossimo 17 agosto conoscerà un giorno cruciale, venerdì 17 agosto, con i 3 ministri che scenderanno, il ministro della giustizia, il ministro dell'ambiente e il ministro dello sviluppo economico, che scenderanno a Taranto per vedere di sbrogliare una matassa in cui, lo dico subito, non esiste a mio avviso una posizione unica e netta. Va tutelata la salute degli abitanti, già danneggiata gravemente in questi anni, ma va tutelato anche l'occupazione, i 5.000 operai che lavorano nell'area a caldo dello stabilimento. 349-238-6666 per i vostri SMS. Allora, mi chiedete un'opinione sulla vicenda Ilva. Allora, diciamo quello che è certo. I dati dell'Istituto Superiore di Sanità che riguardano le aree vicine allo stabilimento Ilva di Taranto, che è il più grande impianto siderurgico d'Europa, stimano come l'incidenza dei tumori sia aumentata sia del 15% superiore alla media, con un picco del 30% del cancro al polmone. Superiore alla media anche l'incidenza della mortalità per malformazioni congenite, più 15%, le malattie respiratorie più 10% e quelle dovute a malattie dell'apparato digerente. E il non rispetto delle normative ambientali per limitare le emissioni nocive è all'oggetto, è il motivo del contendere delle indagini portate avanti dalla magistratura sull'IVA. Questo è il fronte salute. Il fronte però economico occupazione, oltre che riguardare in maniera diretta i 5.000 operai che lavorano nell'area a caldo dello stabilimento, riguarda in maniera indiretta i 12.000 dipendenti. È il più grande, dicevo, impianto siderurgico d'Europa, ha 5 altiforni, 12.000 dipendenti e praticamente da solo genera l'80% delle attività del porto di Taranto. Quindi attenzione che c'è anche l'indotto, non ci sono solo i dipendenti diretti. Il polo siderurgico fu venduto dallo Stato alla famiglia Riva nel 1995 per 2.200 miliardi di vecchie lire, circa un po' più di un miliardo di euro. La vicenda, chi se la fosse persa, il 26 luglio il giudice per indagini preliminari Patrizia Todisco mette sotto sequestro l'area a caldo dello stabilimento, dispone 8 arresti domiciliari tra dirigenti e proprietari dell'Ilva. Secondo il GIP, 386 decessi avvenuti tra il 1998 e il 2010 sono attribuibili alle emissioni dell'Ilva. Il 3 agosto il Consiglio dei Ministri sblocca 366 milioni di euro per avviare l'operazione di bonifica ambientale dello stabilimento. Il 7 agosto scorso il Tribunale del Riesame conferma il sequestro e nomina custode giudiziale il presidente dell'Ilva, Bruno Ferrante, e viene ordinato il risanamento dell'area. La situazione si complica, come se non fosse già abbastanza complicata, lo scorso 10 agosto. Il GIP emana una nuova ordinanza in cui specifica che in attesa di bonifica non è prevista alcuna facoltà d'uso dello stabilimento. L'Ilva annuncia ricorso e poi l'11 agosto viene revocata la nomina di Ferrante per palese conflitto di interesse. E oggi il segretario della FIM Mimmo Panarelli dice che la FIM farà ricorso in tutte le istanze contro i provvedimenti del GIP che estromettono Ferrante dalla custodia giudiziaria disposta dal riesame. Il ministro della giustizia Paola Severino ha detto che il ministero acquisirà i provvedimenti con cui il GIP di Taranto ha ribadito il sequestro di impianti dell'IVA e ha revocato la nomina di Bruno Ferrante dall'incarico di curatore dello stabilimento. Ha auspicato che la soluzione unisca il lavoro alla salute. E però la notizia di oggi, di questa mattina, è la data il sottosegretario della Presidenza del Consiglio Antonio Catricalà: il governo farà ricorso alla Consulta contro le decisioni del GIP. Alcune volte queste sentenze non sembrano proporzionate rispetto al fine legittimo che vogliono perseguire e quindi noi chiederemo alla Corte Costituzionale di verificare se non sia stato menomato il nostro potere, il potere di fare politica industriale. Noi abbiamo fatto un decreto legge, questo decreto legge resterebbe privo di qualsiasi valore se l'industria dovesse smettere di lavorare, se il forno si dovesse spegnere. Sarebbe un fatto gravissimo per l'economia nazionale, sarebbe un fatto grave non solo per la Puglia ma per l'intera produzione dell'acciaio in Italia. Quindi netta la posizione del governo, che ha fatto ricorso alla Consulta contro il GIP di Taranto, e molto critico anche sugli sviluppi che sta aprendo la vicenda il ministro dell'Ambiente Corrado Clini. Io non so se eccesso di zelo o troppa fretta, prendo solo atto che nel momento in cui si mette fuori gioco Ferrante come custode e si indica la strada della chiusura degli impianti del ciclo a caldo, il lavoro che abbiamo avviato viene compromesso in maniera significativa. Ora, ripeto, noi stiamo esercitando una competenza che ci deriva dalla legge, non stiamo facendo qualcosa di straordinario. E vorremmo che venissero rispettati i ruoli, il nostro ruolo, che è quello di gestire le procedure di autorizzazione degli impianti industriali in funzione della protezione ambientale, e il ruolo della magistratura, che è quello di sanzionare se non vengono rispettate le regole. Se invece si crea concorrenza di ruoli, è chiaro che si crea poi anche una confusione. E poi sul tema salute, perché voglio dire, è chiaro che l'impianto deve essere messo in sicurezza sul fronte delle emissioni. Il ministro Clini ha detto: attenzione, i dati sulla mortalità, quelli che citavamo e quelli che sono, secondo il GIP, Patrizia Todisco, hanno causato circa 384 decessi tra il 98 e il 2010, sono retrospettivi, e quindi la situazione adesso sarebbe cambiata. Questi dati indicano che c'è un eccesso di mortalità molto probabilmente legato all'inquinamento ambientale che si è determinato nel corso degli anni. Ma ho anche ricordato che i dati di mortalità riguardano malattie croniche, degenerative, tumori che si stabiliscono nel corso degli anni e che perciò sono riferibili alle esposizioni e all'inquinamento ambientale dei decenni scorsi. Quindi lei si sente di dire, ministro, capire, che l'Ilva uccideva anni fa e che oggi non uccide più? No, io voglio soltanto dire che nel corso degli anni, per effetto delle leggi nazionali e delle direttive europee, gli impianti sono stati adeguati, almeno in larga parte. Voglio ricordare che le concentrazioni di diossina in atmosfera che venivano emesse fino a 3 anni fa sono state abbattute quasi del 98%. Allora la domanda è: gli impianti industriali oggi in esercizio rappresentano un rischio tale imminente da autorizzarne la chiusura, oppure, come avviene negli altri paesi europei, questi impianti devono essere adeguati continuando l'esercizio? Beh, questo mi sembra oggettivamente il tema, nel senso che fatto salvo l'elemento sulla salute e fatto salvo il fatto che i danni negli anni passati ci sono stati per gli abitanti di Taranto, guardando al presente e al futuro, bisogna capire se le emissioni attuali, così rispondo anche a molti ascoltatori che al 349-238-6666 chiedono un punto di vista, se le emissioni attuali siano tali da giustificare il blocco degli impianti e quindi 5.000 persone a casa più tutto l'indotto, oppure si possano ulteriormente migliorare ma mantenendo l'attività e l'operatività. Mi sembra però che tutta la vicenda si sia anche molto complicata con la decisione su Ferrante, che insomma, ha estromesso Ferrante revocato la nomina di Ferrante per palese conflitto di interesse, in quanto custode giudiziale questa è la carica di Ferrante. Chiedo però lumi a chi sta seguendo da Taranto l'intera vicenda. Domenico Palmiotti del Sole 24 Ore, buonasera Domenico. Buonasera, buonasera a voi. A due cose, allora, il primo, vabbè, se ci aiuti a capire anche che cosa, per quali motivi, quali sono state le argomentazioni per rimuovere Ferrante. La seconda, però, la decisione annunciata oggi da Catricalà, che il governo farà ricorso alla Consulta, a mio avviso, ma non vorrei esagerare, porta verso il braccio di ferro tra il governo e anche Clini su questo, diciamo, tra il governo e il GIP di Taranto. Diciamo che la prima mossa del GIP di Taranto è di venerdì scorso, quando praticamente dice all'azienda che non deve produrre, non ha una facoltà d'uso per fini produttivi ma solo per il risanamento degli impianti, e rivede le funzioni dei commissari. Ferrante, che fino a quel momento era custode giudiziale alla pari con agli altri commissari, viene retrocesso e tutti i poteri vengono attribuiti ad uno dei custodi, Barbara Valenzano. Perché? Qualche ora prima Barbara Valenzano aveva depositato al GIP una relazione dove avrebbe palesato delle difficoltà e degli intralci a portare avanti la sua missione di custode giudiziale finalizzata al risanamento. Avrebbe, pare, secondo alcune indiscrezioni, anche evidenziata una capacità produttiva dell'Ilva che andava avanti regolarmente nonostante il sequestro. A quel punto il GIP decide di scendere nuovamente in campo, di intimare all'azienda cosa prevede il sequestro, che non può produrre, e declassa Ferrante dalle sue funzioni. Poi rimuove Ferrante nel momento in cui la società Ilva annuncia che farà ricorso contro questo provvedimento del GIP, e lo rimuove perché a quel punto si crea un conflitto fra la figura del GIP e la figura di Ferrante. Ferrante non ha più, diciamo, non può avere più un rapporto fiduciario, non può essere più in subordine al magistrato perché gli ha fatto appunto ricorso, e a quel punto Ferrante viene rimosso. Però poi ci sono le novità. E questo è il fronte, diciamo, tra magistratura e gestione dell'impianto. Per cui certo, tu facevi notare come il GIP si sia mosso, perché arriva una denuncia o comunque una relazione in cui si dice che l'impianto non si è fermato, mentre il GIP dice che l'impianto deve fermarsi e operare solo per quello che riguarda gli interventi di riqualificazione sulle emissioni. Poi c'è però appunto l'altro fronte, Domenico, che è quello governo GIP di Taranto, visto che il 17 arriveranno tre ministri, Clini, appunto Severino e Passera, a Taranto. La decisione di oggi di Antonio annunciata da Catricalà, e il governo farà ricorso alla Consulta, ripeto, a me sembra una presa di posizione molto netta nei confronti del GIP. Sono prese di posizione molto nette, e che a Taranto dalle organizzazioni sindacali, almeno dalla FIM e dalla UIL, vengono viste con favore, perché sono il segno che il governo vuole essere protagonista, vuole essere attore importante di questa partita e soprattutto evitare la chiusura dell'impianto di Taranto. C'è da dire che a mezzogiorno, ed è durato due ore, Ferrante ha incontrato i sindacati prima di recarsi a Bari da Vendola, un nuovo incontro che dovrebbe cominciare a minuti. Ferrante ha detto due cose: la nostra azione, l'azione dell'Ilva, si muove su due binari. La prima è quella che faremo ricorso, arriveremo anche fino alla Cassazione, contro i due provvedimenti del GIP. La seconda è quella della massima collaborazione. Se i periti, se i custodi giudiziali ci chiedono di fare degli interventi di risanamento, di miglioramento ambientale, noi li faremo. L'azienda è disposta a farli, così come è disposta a fare anche tutto quello che in aggiunta dovessero chiedere le istituzioni pubbliche di Taranto e della Puglia. E poi è stato chiesto a Ferrante se i custodi nell'incontro di oggi avessero posto il problema della fermata. Lui ha risposto, secondo la ricostruzione sindacale, che i custodi non hanno detto siamo venuti qui per chiudere, siamo venuti per capire il ciclo produttivo e per avere contezza delle caratteristiche degli impianti. E poi alla domanda se è vero o meno che l'Ilva stia producendo al massimo, comunque con uno standard di normalità, Ferrante ha detto che dal 26 luglio, dal giorno in cui la prima ordinanza del GIP è stata notificata, l'Ilva sta andando in marcia sì con tutti gli impianti, ma al regime produttivo minimo. La marcia di tutti gli impianti, seppur al regime produttivo minimo, è necessaria per consentire a tutto il siderurgico di Taranto di alimentarsi di energia, perché l'energia di Taranto, dello stabilimento di Taranto, viene assicurata dai gas di recupero di Altoforno e di Acciaierie. Quindi se si blocca lo stabilimento, non ci sono i gas di recupero per la parte energetica. Io aggiungo anche che, come sanno molti, o come sa chi si occupa di acerie, spegnere un altiforno è costosissimo, cioè l'altiforno viaggia e lavora 24 ore al giorno, perché poi riattivarlo ha dei costi enormi, quindi attenzione, oltre che esserci il costo per la riattivazione, c'è anche il gas che viene generato dall'attività stessa dell'impianto. Ultima domanda per te, Domenico, riguarda il 17. Insomma, il giudice Todisco, Patrizia Todisco, definita da molti dura, riservata, che va dritto per la sua strada, ha detto chiaramente qual è la sua posizione, e la vicenda con Ferrante la dimostra in maniera molto netta. Il governo oggi, con l'iniziativa annunciata da Catricalà, ha fatto ricorso, quindi vuole andare avanti per la sua strada. Che margini ci sono a questo punto il 17? Perché i tre ministri scenderanno a Taranto, ma non è che incontreranno il GIP, scenderanno a Taranto per rassicurare i dipendenti e i sindacati su cosa? Che appunto si sta lavorando per cercare una soluzione che tenga insieme i due aspetti, risanamento ambientale e continuità produttiva. Non è facile, però questa è una strada che viene ormai evidenziata come necessaria e imprescindibile da più parti. Aggiungo soltanto una cosa: è stato chiesto a Ferrante sulla fermata degli impianti. Ferrante ha detto: se io dovessi scendere al di sotto di questo livello produttivo dovrei necessariamente fermare un altoforno. Però qui abbiamo due alternative tecniche: o l'altoforno viene fermato e a quel punto sappiamo che riaccenderlo sarà molto complicato perché avremo un impianto danneggiato, oppure l'impianto viene messo in fase cosiddetta di preriscaldo, ma ha bisogno di una carica maggiore di COC e questo avrebbe degli impatti inquinanti. E qui la situazione si complica notevolmente, scrivono alcuni ascoltatori, ma sapete che a causa della diossina è vietata la vendita di mitili nel Mar Piccolo di Taranto, nel Porto Piccolo di Taranto. Allora, ripeto, nessuno mette in dubbio quanto anche il Ministero della Salute ha ricordato, cioè i danni causati dalle emissioni nocive dell'IVA in questo periodo. A me sembra che il punto di ragione, il punto di caduta possa essere quello che sentivamo prima dal ministro Clini, e cioè, attenzione, bisogna capire se i danni ci sono stati, se le emissioni, visti i miglioramenti fatti in questi anni, se le emissioni siano ancora in grado di produrre quei danni, le emissioni attuali, e se soprattutto non si riesca in un tempo relativamente breve, visto che non è che con 2-3 mesi tu riesci a creare un danno del genere, sono emissioni durate per anni che hanno portato questo aumento dei tumori che prima ricordavamo, se tu riesci in un tempo relativamente breve a ridurre queste emissioni senza fermare e bloccare l'impianto. Grazie, e ci risentiremo anche nei prossimi giorni. A Domenico Palmiotti del Sole 24 Ore, in collegamento con noi da Taranto. Oggi, lo dico a chi ce lo chiede, come tutte le mesi di agosto fino a fine agosto, la trasmissione avrà un orario estivo come tutti gli anni, 12 anni che va in onda ininterrottamente, e terminerà alle 18, poi invece dal 1 settembre riprenderà con l'orario classico fino alle 18.30. Chiusa la nota di servizio, la borsa, dicevo, era partita un po' debole, poteva chiudere peggio, in realtà pochi scambi, volumi bassi, ma soprattutto un indice che alla fine perde solo lo 0,11%, la borsa. Tra i titoli, ST Microelectronics è il peggiore, tra quelli maggiore capitalizzazione, -2,50%, Boots Unice -1,60% come Mediolanum, l'1,20% lo perde Pirelli, l'1,1% Saipem e anche Todds, lo 0,90% Ansaldo STS. Bene, invece oggi gli energetici, A2A +3,32%, Enel Green Power +1,94%, Enel +0,30% come Terna. Bene anche alcuni bancari, penso a Mediobanca +1%, Unicredit +0,96%, bene Mediaset +1,20%. Scambi rarefatti, Agostani, Andrea Fontana, Radio Colle Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Dicevo, seduta Agostana con volumi bassi, però l'asta dei bot è andata tutto sommato bene, e quindi mi sembra che Piazza Affari, cioè la borsa di Milano, sia la migliore con questo 0,11% tra le borse europee. Sì, peccato peraltro che nel finale abbia azzerato i guadagni, che erano arrivati quasi vicino all'1% in mattinata e si erano ben rialzati nel pomeriggio, invece poi l'apertura di Wall Street è negativa e, come dicevi tu, un clima abbastanza apparso lento, diciamo, per questa seduta agostana, ha fatto azzerare i guadagni, ha chiuso meno 0,11, comunque diciamo con buone ricoperture su alcuni titoli. titoli, un buon andamento dei bancari per quanto riguarda Piazza Affari, meno il settore industriale. Ebbene, dicevo, gli energetici, tranne in realtà sotto questo profilo Eni meno 0,56, Saipem meno 1,1%, bene gli energetici che si chiamano A2A ed Enel Green Power. Sì, c'è stata abbastanza una rotazione di portafoglio per quanto riguarda gli energetici. Bisogna dire che complessivamente in Europa i conti della tedesca E.ON hanno contribuito a dare diciamo una certa attenzione per quanto riguarda le società che offrono servizi pubblica utilità, è il caso appunto di A2A, non di Enel Green Power, che invece è nel settore rinnovabili, però certamente un cambio di una rotazione di portafoglio che ha riguardato A2A con volumi invece consistenti, differenti rispetto al mood generale della giornata, è permesso a 2A di guadagnare il 3% e nel Green Power di recuperare quasi il 2%. Giustamente i conti E.ON hanno influito in senso positivo, tra l'altro invece gli scambi oggi erano appunto estivi, ma su Mediaset, se ho ben visto l'agenzia, ci sono stati i maggiori scambi da 5 anni e mezzo, moltissime ricoperture, cioè chi torna a comprare il titolo dopo averlo venduto. E nell'ultima settimana Mediaset ha fatto un più 22%. Esattamente, addirittura con gli scambi nel finale di seduta, nell'asta finale di seduta, siamo arrivati a un record che fa oltre i cinque anni, che è forse anche un record storico, perché quasi 50 milioni di pezzi scambiati per Mediaset sono un numero consistente, siamo sopra il 4% del capitale. Il titolo, come ricordiamo, era sprofondato a fine luglio dopo i conti semestrali, indicazioni sulla pubblicità, chi era corto sul titolo però progressivamente è andato a ricoprirsi e appunto, come tu ricordavi, ha guadagnato oltre il 20% nelle sedute iniziali di agosto, oggi fortissimi volumi, quindi un Mediaset che viene un po' riscoperto dopo aver toccato i minimi storici intorno a quota 1,2 euro, adesso si sta distaccando da quota 1,4, quindi insomma un bel recupero per quanto riguarda Mediaset. Sì, pur su valori sempre bassi, ma decisamente un recupero, più 22% in una settimana. Anche la Popolare Emilia Romagna era stato un titolo pesantemente bastonato dal mercato e oggi l'abbiamo vista, se poi nel finale è un po' frenato, in evidenza, alla fine fa solo più 0,20%, ma è rimasta a lungo come secondo, terzo miglior titolo. Sì, è un titolo che abbiamo visto molto penalizzato quando i bancari vanno male, è un gruppo che sta dando vita a una riorganizzazione piuttosto consistente, ne ha parlato anche l'amministratore delegato Odorici nel fine settimana, che ha quantificato in 15-20 milioni di accantonamenti derivanti dal sisma in Emilia e ha parlato di una debolezza generale del settore bancario in questa difficile situazione congiunturale economica. Certamente oggi per la Popolare Emilia Romagna ha recuperato in buona parte della seduta, poi si è un po' spenta, ha guadagnato lo 0,21, ma in un settore bancario molto positivo, abbastanza positivo, diciamo così, non esageriamo nell'euforia, con Mediobanca che è stata la migliore, ha guadagnato l'1%, anche per Mediobanca un buon trend nelle ultime sedute, quindi un buon recupero per questo titolo. ST Microelectronics e Buzzi Unicem meno 2,5 rispettivamente e meno 1,60, e poi le due vicende Prelios e Sopaf. Sì, per quanto riguarda ST e Buzzi bisogna dire che sono vendite che riguardano soprattutto il settore industriale nel suo complesso, e anche le altre borse europee hanno mostrato vendite in questi settori, Infineon, la stessa ST che è quotata anche a Parigi, Lafarge in Francia, quindi il settore industriale e anche tecnologico ha piuttosto sofferto nel suo complesso, tant'è vero che anche Saipem, per esempio Prysmian sono stati oggetto di vendita, quindi ST e Buzzi hanno sofferto come le altre. Per quanto riguarda invece i due titoli che tu citavi, sono state un po' le storie di oggi, della borsa di oggi. Sopaf ha perso l'8,5% dopo aver comunicato che per la ristrutturazione in corso non è in grado di pagare le cedole, cioè gli interessi sui prestiti obbligazionari 2007-2015 e 2011-2015, quindi questo ha fatto sprofondare il titolo dell'8,5%. Per quanto riguarda invece Prelios, la perdita è stata del 13,5%, la società aveva rinviato a fine agosto la pubblicazione della semestrale ufficialmente perché ci sono in corso trattative per la vendita di alcuni asset e quindi la società voleva, diciamo, avere chiarezza su questa trattativa prima di annunciare i conti e quindi annunciare anche delle indicazioni su queste trattative. In realtà le indicazioni indiscrezioni, le anticipazioni, le indiscrezioni di stampa del fine settimana hanno fatto emergere una potenziale nuova svalutazione, nuove rettifiche sui crediti per quanto riguarda Prelios, con possibili perdite che le indiscrezioni di stampa quantificavano in circa 120 milioni, quindi sì. Su questo il mercato ha fortemente penalizzato il titolo. Concludiamo con i migliori e peggiori: EMS più 32%, aeroporto di Firenze più 14,20%, acque potabili guadagnano il 13% e Crespi il 10,12%, Ascopiave guadagna il 9,60%. Grazie Andrea Fontana, Radio Core, Il Sole 24 Ore. E l'ultimo tema di questa puntata, che è un tema che purtroppo temo ci porteremo dietro, è di nuovo Windjet. Perché? Perché domani alle 14.30 vi sarà un incontro in via Veneto, il Ministero dello Sviluppo Economico, tra le varie parti, Windjet, anche all'Italia, il ministro. Nel frattempo, con molta lentezza, vengono trasbordati i passeggeri, ma le polemiche divampano anche sul fronte dei costi che devono sostenere i passeggeri per ricomprarsi il biglietto. Volare, cantare, nel blu dipinto di blu. Cantare e canzoni poche, grida molte anche, e anche tensione. Allora, vediamo intanto la situazione dal punto di vista della cronaca, perché Alitalia ha informato di aver portato a destinazione con voli speciali 2.800 passeggeri la scorsa notte, che quindi diventano complessivamente 5.800, e di aver dato assistenza a 12.600 passeggeri di Windjet al numero telefonico dedicato, che comunque vi giriamo, 0665859030. È una punta di un iceberg, però, perché complessivamente sapete che Windjet ha venduto 300.000 biglietti da qua a fine ottobre, e quindi le tensioni resteranno. Sapete anche cosa è successo, chi fosse in vacanza lo raccontiamo brevemente. Lo scorso 25 gennaio c'era in parte un'operazione in cui Alitalia dovrebbe integrarsi, quindi comprarsi Windjet, compagnia low cost siciliana che trasporta 3 milioni di passeggeri l'anno e ha 500 dipendenti. Il 29 giugno però Alitalia blocca l'intera operazione perché Windjet non ha ancora fornito le informazioni richieste su bilancio, patrimonio e debiti. Il 18 luglio si pronuncia l'antitrust, che chiede che alcuni slot sulla tratta Milano-Catania, Milano-Palermo e Roma-Catania vengano ceduti da Alitalia. Gli slot sono i diritti d'atterraggio. Queste condizioni vengono ritenute penalizzanti da Alitalia. Viene aperto un nuovo tavolo di negoziato e il 3 agosto un nuovo accordo. Il 7 agosto però Alitalia, cioè il CDA dell'Italia, dà il mandato all'amministratore delegato Ragnetti di firmare il contratto a condizione che Windjet offra maggiori garanzie bancarie. Windjet non è in grado di fornirle e si blocca tutto, e già c'è un problema di una trattativa che si blocca nel pieno dell'esodo estivo. Il numero uno dell'Italia, Ragnetti, Andrea Ragnetti, ha detto: abbiamo rinunciato per rischi eccessivi. La vicenda Windjet ci ha delusi e amareggiati. Dopo mesi di duro lavoro avremmo voluto chiudere la trattativa. Purtroppo i comportamenti di Windjet ci hanno costretto a rinunciare a un accordo per il quale ci eravamo impegnati a fondo. Il responsabile trasporti USB, Paolo Marras, intervistato dalla nostra Valeria De Rosa, così sulla situazione di Windjet. Il problema è che è l'Italia che, non avendo minimamente un pensiero compiuto su come dovrebbe essere il trasporto aereo, registra ogni volta nascita e morte, che è quasi un dato inevitabile visto come siamo messi, e ogni volta rimane sul tappeto lavoratori che per far partire compagnie peggiorano costantemente le condizioni di lavoro, oltre che quelle salariali. Dopodiché non serve a niente e fai il botto, perché l'elenco, tra l'altro non completo, che è uscito in questi giorni, ti dice che tutte le compagnie low cost italiane hanno fatto sta fine. Il dramma è che non è che lo stanno a fare solo le compagnie low cost, perché se tu guardi sia la situazione di Meridiana che quella di Alitalia, che è partita, ringraziando Dio, non con le migliori condizioni, sta nella stessa condizione. Volare. E oggi l'onnipresente, lo dico con massimo rispetto, Vito Riggio, da sempre, da quando io ricordo, alla guida dell'ENA, anche dell'autorità di vigilanza sul traffico aereo, ha detto: attenzione, invita all'Italia a non creare ulteriori disagi ai passeggeri, ma lancia anche l'allarme: a rischio la scomparsa dell'intero sistema dell'aviazione italiana. Così, no. E poi la beffa dei passeggeri, perché allora chi ha comprato il biglietto ha già pagato la tassa aeroportuale di 30 euro, mo nel rifare un altro biglietto deve ripagare altri 30 euro, e già questo secondo me non si regge in piedi. Ma ci sono anche i sovrapprezzi pagati per cambiare il volo, 80 euro che in alcuni casi sono arrivati fino a 350 euro, dovuti ai diritti di biglietteria che gonfiati a dismisura, secondo l'accusa, dalle società di gestione. Marzio Bartoloni del Sole 24 Ore, buonasera Marzio. Buonasera Sebastiano e buonasera a tutti gli ascoltatori. La domanda è molto semplice, anche perché oggi la situazione, si è cercato di porre una pezza, è caos soprattutto a Palermo, all'aeroporto di Palermo e all'aeroporto di Catania. Ti chiedo però, che cosa potrebbe uscire dall'incontro di domani dei vari soggetti appunto al Ministero dell'Economia? Sì, l'idea di Passera, che ha convocato questo tavolo che si chiama Unità per la gestione delle vertenze aziendali, che è stato utilizzato sempre in passato per termini merese, è quello di, diciamo, trovare una soluzione, salvare questa trattativa che si è complicata in questi mesi tra l'Italia e Wingjet. Innanzitutto domani credo che si cercherà di fare chiarezza, perché c'è stato un vero e proprio braccio di ferro tra le due compagnie a colpi di accuse e denunce, quindi forse domani si farà chiarezza e si cercherà di, come dire, di arrivare a portare a buon fine il closing dell'operazione. Che potrebbe essere però quale? Ma, cioè voglio dire, all'Italia non può essere... Adesso, con tutto il rispetto, però l'Italia non può essere obbligata a comprare Wingjet, è un soggetto privato, e se dice che non ha ricevuto abbastanza garanzie va tutelata su questo. È anche vero quello che obiettano altri osservatori: bloccare una trattativa con il pieno esodo estivo, scusatemi, in questo momento, un conto se la blocchi a novembre, un conto se la blocchi a inizio agosto, e il caos si è visto ed è sotto gli occhi di tutti. No, ma quello che dici te è giusto, perché sono legittimi i dubbi di Alitalia, che ha chiesto, ora io non conosco esattamente nel dettaglio come è andata la trattativa in questi mesi, ma indubbiamente Alitalia ha chiesto delle garanzie ulteriori, bancarie soprattutto, sì. Bancarie, e questo faceva ballare un po' il prezzo dell'acquisizione, queste documentazioni sembra che non siano state prodotte. E quindi non si può certo obbligare la compagnia Alitalia ad acquistare Wingjet, ma domani innanzitutto si cercherà di fare chiarezza per capire come ci sono ancora i presupposti per questa operazione, altrimenti io credo che il governo per salvaguardare l'occupazione dovrà anche tentare di vedere nelle prossime settimane se c'è un altro possibile acquirente per Wingjet, sì. Che non mi sembra comunque in questo momento sia apparso, poi dopodiché vedremo se c'è qualche compagnia magari low cost interessata. Non, ora come ora mi sembra un'ipotesi, appunto solo un auspicio. Tra l'altro non c'entra nulla con la vicenda Wingjet, ma i risparmi anche delle compagnie low cost creano delle situazioni assolutamente strane. Pensa che 3 voli Ryanair diretti a Valencia sono stati costretti a chiamare il My Day, e quindi l'allarme, cioè l'allarme a causa del poco carburante. Tutti e 3 velivoli erano diretti a Madrid ed erano sono stati deviati a Valencia a causa dei forti temporali che avevano colpito la capitale spagnola. Ma gli aerei hanno lanciato l'allarme perché viaggiavano con poco carburante nel serbatoio. Domani, appunto, alle 14:30 l'incontro, per tornare invece alla vicenda di Wingjet, l'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico. Io intanto ringrazio il collega del Sole 24 Ore Marzio Bartoloni, ci risentiremo anche domani, avremo anche probabilmente la dichiarazione del Ministro Passer e quelle dei vertici di Alitalia. Intanto da Sebastiano Barisoni a voi in ascolto l'auguro di una buona serata. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.